E quest'oggi un po' così anche a braccio, un po' come viene, cercheremo di ripercorrere un po' quello che è stato, che sono state quelle giornate ormai di 11 anni fa. In questi giorni, in questo ultimo mese, tanto si è ritornato a parlare, purtroppo si è tornati a parlare di Genova del 2001 attraverso le aule di tribunali, attraverso la Corte di Cassazione. E sembra ormai che in questo paese siano le sentenze a dettare la storia, siano le sentenze a fare così anche la politica. E quello che insomma è successo il 5 luglio scorso, piuttosto che il 13 luglio scorso, l'abbiamo raccontato dai questi microfoni, e forse un po' meno ci si è soffermati su quelle che sono state le ragioni che portarono in piazza nel luglio del 2001 appunto 300.000 persone. Quest'oggi, leggendo online insomma tutte le notizie in prima pagina, si continua a parlare di spread, si continua a parlare di borsa, si continua a parlare di crisi economica. Ebbene, questa crisi economica che i movimenti già allora nel 2001 andarono a denunciare proprio a Genova, già era iniziata diciamo così diversi anni prima. Si può pensare al 1999 a Seattle, piuttosto che a Praga nel 2000. Insomma, si cercava di globalmente, anche i movimenti, di andare a contestare quelli che erano gli otto grandi, o comunque i grandi del mondo, il Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che la Banca Mondiale, che avrebbero deciso, stavano decidendo sulle sorti proprio di miliardi di persone. E a Genova ci andarono non soltanto gli italiani o gli europei, ci si recarono anche il Sud America, piuttosto che l'India. Ci si recarono tutti quei popoli e quelle popolazioni soprattutto che volevano appunto dire no a una gestione dell'economia così come che oggi i giornali intitolano, cioè che avrebbe portato sicuramente a una crisi economica come quella appunto che ci stiamo oggi vivendo. E andando un po' in rete cercherò insomma di ricostruire un po' queste giornate attraverso quella che è stata la storia di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa partecipò anch'essa a Genova, ci partecipò tramite il circuito di Radio Gap, fu costruito un po' come tutte ormai un po' sanno, e allestito quello che poi è stato chiamato il Media Center, frutto di tanta mediazione anche lì, media di comunicazione ma anche di mediazione, e alla fine fu concessa questa scuola, queste due scuole, la Pascoli e la Diaz. Nella Pascoli fu allestito appunto diversi piani con computer, con radio, fondamentalmente c'era un piano terra dove si trovava Radio Gap, un circuito di radio partito prevalentemente tanto da Radio Onda Rossa, ma poi che aveva visto la partecipazione di numerose radio italiane, penso a Radio Onda d'Urto, a Radio Fujiko, insomma a varie radio di Bologna, a varie radio Radio Onda d'Urto di Brescia, a varie radio appunto italiane, che vollero raccontare, insomma dare il loro punto di vista su quello che sarebbero state le manifestazioni di piazza, visto insomma già come erano state descritte in precedenza dai media mainstream quelle giornate, con allarmi terribili e via dicendo, poi l'andremo anche a vedere. Quindi fu allestito questo Media Center, Radio Onda Rossa smontò la sua regia qui e si trasferì là a Genova, un po' come appunto altre radio. Nel primo piano si trovava Indimedia con le sue telecamere, i suoi computer per acquisire il materiale video, con la sua cronaca attraverso il sito italy.indimedia.org. quindi si era allestito insomma a livello internazionale, perché poi soprattutto Indimedia ha visto la partecipazione di tanti attivisti, di tanti media attivisti, una parola insomma che ha cominciato a circolare proprio in quelle giornate, che veniva anche un po' da Seattle, appunto dove nacque Indimedia, e quindi diversi media attivisti di tutto il mondo decisero di raccontare insieme tutte le manifestazioni che si sarebbero svolte a Genova. E appunto Radio Gap, anche Radio Onda Rossa, gli studi furono allestiti in questa stanza del pian terreno della scuola Pascoli, di fronte a quella che poi sarà la più famosa scuola Diaz. In quella stanza si racconteranno, io poi vi riproporrò insomma diverse corrispondenze, diverse interviste che Radio Gap fece allora. Si raccontarono quelle giornate, il perché ci si recò a Genova, cosa successe nelle piazze di quei giorni. E Una cosa, insomma, che così poi guardando quella nel su internet, grazie anche a diversi altri siti, per esempio TM Crew, anche tmcrew.org raccontò tantissimo quelle che furono quelle giornate. Vi volevo leggere perché andare a Genova. Il potere dei grandi è grandissimo come mai lo è stato, trasferisce i capitali da un punto all'altro del globo in tempo reale, trasferisce i luoghi di produzione, le fabbriche in tempi velocissimi, con altrettanta rapidità disloca portaerei laddove la polizia internazionale lo richiede. La sua voracità predatoria in pochi minuti ha quasi esaurito le risorse del pianeta, trasforma a tale velocità da impedire qualsiasi verifica scientifica, geni vegetali, animali, umani. Le sue armi tecnologiche, militari sono potentissime e velocissime. Soltanto un contropotere che abbia le stesse caratteristiche e capacità, dunque gli stessi mezzi, dunque gli stessi fini, può ambire ad opporvisi attraverso un conflitto bellico. L'estrema velocità del potere nell'agire e nel trasformare il terreno d'azione è un'arma in se stessa. Costringe miliardi di persone alla lentezza estrema indotta dalla mancanza di cibo, da condizioni di lavoro schiavistiche, da prigione estenuanti. Altri, non molti, che possono esistere oltre la soglia della sopravvivenza fisica, sono più costretti a mimare la velocità dei grandi per non diventare esclusi dopo essere stati flessibili, per non farsi trovare impreparati dalla prossima ennesima trasformazione del mercato, dalla prossima innovazione tecnologica, dalla crescente velocità ostilità del prossimo. La trasformazione continua e velocissima non consente memoria se non quella virtuale che viene immagazzinata in supporti cartacei e informatici. Ciò che accade per la maggior parte delle persone che subiscono il potere dei grandi sembra accadere senza precedenti e senza conseguenze. Andare a Genova come altrove, quando i grandi si riuniscono pubblicamente, non impedirà loro di continuare a decidere per tutti, riunendosi segretamente. Forse diventerà o è già diventato un business mass mediatico, la rappresentazione del conflitto per occultare ulteriormente il conflitto reale, devastandone i corpi e miliardi di corpi, elementi. Il capitalismo transnazionale sembra determinato a eliminare negli esseri umani ogni traccia di valore d'uso, rendendoli soltanto e definitivamente merci, valore di scambio. Ma andare a Genova può rallentare la velocità, consentire che si ripristini il legame fondamentale tra causa ed effetto, tra passato e presente, con la lentezza necessaria alla memoria per ricordare, alla mente per riflettere. Può consentirlo se ci si ostina a fornirci informazioni e strumenti d'analisi per capire di che cosa i grandi stanno parlando, quali decisioni stanno prendendo, quali conseguenze avranno per tutte queste decisioni. Bisogna andare a Genova tutti i giorni. Questo, insomma, uno dei tanti centinaia di comunicati comunque che portarono poi alle giornate di Genova. E sempre su questo sito si può trovare anche quelle che poi saranno le decisioni di questi grandi del G8, in cui, ricordiamo, si fece a Genova per decisione del governo precedente a quello di Berlusconi, quindi il governo che aveva, insomma, anche deciso le misure di piazza di quel marzo del 2001, che ci ricordiamo tutti quanti, in cui anche lì furono grosse le cariche della polizia. E addirittura nel precedente G8, cioè ancora prima di quello che ci fu in Italia, che fu fatto l'anno prima, il 23 luglio del 2000 a Okinawa in Giappone, il documento finale decideva: durante gli ultimi 25 anni l'economia mondiale ha conosciuto un livello di prosperità senza precedenti, è finita la guerra fredda e la globalizzazione ci sta portando verso un senso comune di comunità. Questo rapporto mostra come il progresso è possibile quando le giuste condizioni sono create per la crescita e lo sviluppo sociale. La distruzione del sistema di assistenza sociale pubblico deve essere la premessa ai nostri investimenti per garantirci profitti incalcolabili, dice, commenta questo sito. E quindi, ovviamente, insomma, queste parole che uscirono da Okinawa nel 2000 ci sembrano oggi così assurde, no? Quelle che furono le decisioni che loro pensavano che avrebbero portato a delle, o comunque pubblicamente dicevano che avrebbero portato a una prosperità, invece, insomma, ben sappiamo quello che portarono e a quello che ci stanno portando. E per quanto riguarda invece il clima che si respirava nei giorni di quel luglio, si trova un sito, un altro grande sito che negli anni ha raccolto tantissimo materiale. Si parla di ecn.org, dove potete trovare proprio un po' tutte i titoli di giornale che raccontano un po' qual era il clima che si respirava nelle giornate prima di Genova. Si parla tanto di questa famosa trattativa che il Genova Social Forum, che doveva un po' gestire la logistica piuttosto che le manifestazioni, piuttosto appunto anche i media center, piuttosto che la scuola Diaz, stava avendo con la polizia, stiamo parlando del capo della polizia di allora, Gianni De Gennaro, per avere appunto degli spazi piuttosto che contrattare quelle che sarebbero state le manifestazioni di piazza. Ovviamente, insomma, si parla di una parte di Genova e non di tutte le realtà e i movimenti che scesero poi in piazza in quel luglio 2001. E addirittura, insomma, il Corriere della Sera parla di questa famosa trattativa appunto che si stava portando avanti e che aveva portato a Genova non è più una città blindata, sì ai cortei. De Gennaro abolisce la zona gialla, soddisfatti i contestatori, ma l'ala estrema non ci sta. Vi leggo insomma un po' quello che un po' di titoli proprio per capire l'atmosfera che si stava registrando. Abbiamo conseguito un risultato importante, siamo moderatamente soddisfatti, Genova non sarà una città blindata, potremo manifestare e l'accoglienza sarà assicurata. Questo annuncia appunto Vittorio Agnoletto, microfoni, telecamere, cronisti assiepati nel cortile di Palazzo Spinola. Fumata bianca dopo 6 ore di serrata, confronto tra i 13 rappresentanti dei ribelli istituzionali anti G8, guidati dal medico milanese e il capo della polizia Gianni De Gennaro, affiancato dal prefetto Antonio Di Gione e dal questore Francesco Colucci. Questo avveniva il primo luglio del 2001. Poi la città, insomma, cioè queste famose trattative andarono avanti sempre di più. Si parla addirittura del giorno dopo, la stampa, insomma il giornale torinese, intitola: così noi poliziotti eviteremo gli scontri. Posso affermare con certezza una cosa, che i meno interessati a che avvengano scontri durante il G8 siamo noi, i poliziotti. E lo dico dopo 25 anni di carriera nella celere di servizi di ordine pubblico allo stadio e in manifestazioni di ogni tipo. Aldo Tarascio, segretario provinciale di Genova e dirigente nazionale del sindacato di polizia SILP per la CGIL, non ha problemi a parlare delle tensioni del vertice viste dall'altra parte della barricata, quella degli uomini in divisa, cui saranno demandati compiti più delicati di quella settimana di fuoco. E questo appunto, stiamo parlando del 2 luglio, e poi si arriva al 3 luglio, dove il nuovo intitola, il 3 luglio del 2001, G8, il dialogo si incrina, il Genova Social Forum lancia un ultimatum, la questura sciolga il vincolo delle aree d'accoglienza, in arrivo 15.000 delle forze dell'ordine, la rete No Global occupa le agenzie per il lavoro interinale. Quindi a un certo punto, addirittura dopo 2 giorni, il dialogo tra il governo nella persona di Gianni De Gennaro, perché fu direttamente Gianni De Gennaro che andò a e questo ce la doveva già allora dire lunga su quello che sarebbe stato il rapporto tra la politica e la polizia. Fu lo stesso capo della polizia a andare a contrattare con il Genova Social Forum quale dovevano essere le aree che si potevano prendere, che si potevano dare, l'accoglienza piuttosto che il media center e via dicendo. Lo stesso Gianni De Gennaro di quel luglio del 2001 del governo di allora, lo stesso capo della polizia del governo precedente, dove insomma dove c'era D'Alema, andava a trattare appunto con il Genova Social Forum. E qui insomma Agnoletto dice che il governo l'ha ingannato, dopo l'ennesimo incontro tra manifestanti, questura, prefettura e provincia, ha concluso con l'ennesimo nulla di fatto. E quindi insomma sempre in questa pagina si leggono tante altre dichiarazioni: bloccheremo il G8 con i nostri corpi, le tute bianche a Berlusconi, invaderemo la zona rossa, rischio rottura tra i contestatori. Quindi si fanno insomma sempre più pressanti le dichiarazioni su quello che saranno poi le future manifestazioni. posso continuare a leggere. E addirittura, insomma, l'Espresso pubblica e dice perché a Genova può finire male la lotta sul campo contro il G8, e ci ha cominciato in 8 città del sud e sono state occupate le agenzie per il lavoro interinale. A metà luglio arriveranno in Ligure centinaia di migliaia di giovani. Riusciranno a isolare i violenti? E questo è di Giampaolo Pansa, insomma, sull'Espresso, e conosciamo tutti il personaggio. Del G8, conclude lui, non ne frega niente a nessuno. Del G8 non me ne frega niente, si potrebbe pure chiuderlo. Le decisioni vere per l'assetto mondiale non vengono prese in queste conferenze. Si tratta di una vetrina e basta, purtroppo una vetrina pericolosa, quasi fatta apposta per attirare le mosche guerrigliere. Se fossi un vero dietrologo, penserei che ogni G8 è una trappola per contestatori violenti. Stupido chi ci casca dentro. Già il 4 luglio del 2001 sull'Espresso Giampaolo Pansa diceva questo. Il movimento non è diviso, intitolava il manifesto del 4 luglio, purtroppo della Genova, una lettera delle tute bianche a Berlusconi, poi l'incontro del GSF, non condividiamo i divieti del governo, appunto. Quindi comunque la risposta del governo già allora fu quella della costituzione della costruzione della zona rossa. Nelle giornate precedenti a quelle del G8, già i primi di luglio, appunto a metà luglio, si cominciarono a costruire le famose inferriate che dovevano chiudere definitivamente il centro storico di Genova, la zona rossa di Genova, e impedire agli stessi abitanti di Genova di poter circolare senza carta d'identità. Ma anche con la stessa carta d'identità, numerose sono state le interviste che Indymedia ha raccolse in quei giorni, anche precedentemente, in cui gli stessi liguri, gli stessi genovesi, insomma, reputavano un po' assurda questa decisione del governo di alzare così subito il il divieto di manifestare, di arrivare nella zona rossa, o alzare così la tensione con delle grate e delle vere e proprie chiusure. E nei giorni precedenti, insomma, appunto, diverse erano le diatribe, che, se volete, insomma, ve le potete anche vedere da voi. Fatto sta che si decise, appunto, di allestire questo media center e di allestire questo media center, e appunto Radio Onda Rossa, attraverso Radio Gap, si recò a Genova. Sono le 17:24 minuti primi, fra un minuto verrà ucciso ben 11 anni fa Carlo Giuliani. Questo, insomma, ci sembra un po' il sunto di quella di Genova del 2001, quando si parla di ordine pubblico, quando si parla di devastazione e saccheggio. Ovviamente non si può non ricordare l'uccisione di Carlo Giuliani, un colpo alla testa, e da un Carlo Giuliani aveva 23 anni, il carabiniere che uccise Carlo Giuliani Placanica ne aveva 21, un defender lasciato così alla mercé dei manifestanti. Ma non solo, a Carlo Giuliani fu sparato in testa e la polizia disse che era stato ucciso da un sasso, ma ancora vivo il defender gli attraversò il suo corpo per diverse volte, andando avanti e indietro, frantumando appunto quindi le ossa in diversi punti. Da qui io vi volevo mandare questo pezzo prendiamo da questo video, che si chiama, fatto penso da Giuliano Giuliani. Il video ricostruisce un po' tutta Genova, e si chiama La Trappola, insomma il titolo. Possiamo non condividerlo oppure no, però tuttavia andiamo a sentire quello che dice, proprio, che racconta proprio dell'uccisione di Carlo in 17:25, proprio adesso, di 11 anni fa. A Carlo, insomma, questo lo dedichiamo a lui. Oddio, cazzo, sono un pezzo. Oddio! No, porca troia! Merda! Carabinieri. Andate in piazza Limonda, che i carabinieri hanno messo sotto un ragazzo dalla testa. Come? Non si è capito niente. Allora, un'ambulanza velocissimo in piazza Limonda. Piazza Limonda, cos'è successo? I carabinieri hanno fatto retromarcia, c'è un ragazzo con la testa sbasciata. Ma un carabiniere o un ragazzo? Non siamo. Va bene, a posto, mandiamo subito. Ecco. 103 urgente, avanti! Allora, mandate subito l'ambulanza a via Caffa, alla piazza che sta davanti al Caffa. Va bene, questo è un pezzo di questo video, insomma, che poi continua con le foto appunto dell'uccisione di Carlo Giuliani. Questo avveniva appunto proprio 11 anni fa, in quello stesso venerdì 20 luglio del 2001. Oggi, insomma, come allora, sono passati appunto 11 anni e il corpo di Carlo lì in quella piazza l'abbiamo visto tutti, l'averlo schiacciato anche dopo la morte è un atto veramente terribile, un po' come terribili sono avvenute in questi ultimi giorni le scritte sulla sua targa. Ma volevo un po', torniamo un po' a quello che è stato Genova, quindi Radio Gap si trasferisce a Genova, anche Radio Onda Rossa, e sentiamo un po' le prime corrispondenze su quello che sono state, insomma, che sono state proprio raccolte da Radio Gap. Siamo in compagnia di Antonio Bruno, vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, aderente comunque al Genova Social Forum, al quale facciamo qualche domanda sull'aria pesantissima, plumbea, che si respira a Genova in questi giorni che precedono le grandi manifestazioni del 19, 20, 21. Ma nel centro della città c'è una veramente di sconcerto, e c'è la consapevolezza che si sta vivendo una violenza molto forte, soprattutto per l'innalzamento di questo muro, di queste grate alte 5-6 metri che isolano buona parte del centro città, dove ricordo praticamente gli unici che non sono riusciti a fuggire sono le persone che stanno male, i poveri, sono gli anziani, insomma, che hanno una sofferenza molto forte. Nelle altre parti della città c'è questo clima di militarizzazione, questa cappa pesanti, le varie bombe presunte che vengono fatte brillare, i sacchetti della spazzatura che vengono fatti brillare perché potrebbe essere una bomba. È un clima molto duro, diciamo, nella zona mare, ad esempio dell'aeroporto, con un passaggio di motovedette, diciamo, continuo. I genovesi subiscono questo e speriamo che comunque sappiano esprimere il loro dissenso in questi giorni, ecco. Certamente mettere una bomba che poteva esplodere davanti al Stadio Carlini, dove stanno quelli dei centri sociali, evidentemente ha un significato di intimidazione. Mettere a farsi allarme bombe in tutta la città, evidentemente il movimento non ha alcun interesse a farlo, e quindi io penso che tutto sommato oggi ci sia un dissenso molto forte. La discussione politica è cambiata, prima si parlava di come tagliare le pensioni, adesso si parla di debito, di fame, di gente che sta male. Quindi sostanzialmente oggi il movimento, virgolette, sta vincendo, è in grande posizione di forza. Certamente i poteri forti devono in qualche modo cercare di contrastarlo. Noi speriamo che ci sia una diffusione più ampia, diciamo, di solidarietà al movimento, in modo da impedire che questi tentativi, questi colpi di coda siano sempre più violenti, e noi speriamo di poter veramente riuscire a costruire questo mondo migliore. E diciamo, l'abbiamo visto anche noi, chi si è recato a Genova, ma anche chi non si è recato, attraverso i telegiornali, questi uomoni tutti vestiti con questi grandi scafandri neri che andavano a disinnescare queste, o facevano brillare queste fantomatiche bombe un po' in tutta Genova. Si parla ancora dei giorni prima, Genova è blindata, Genova si vuole creare sin da subito un clima di grande paura, un clima che porti a non far arrivare la gente. Addirittura lo stesso Agnoletto parla di 30.000 persone che sarebbero arrivate a Genova, 30.000 persone, ne arrivarono 300.000. Evidentemente questa voglia di partecipazione, di essere protagonisti non solo delle proprie vite, ma anche si aveva evidentemente un'idea, si ha tuttora comunque un'idea su quello che non si voleva Da quei G8, da quegli 8 grandi, ma cosa si voleva portare in piazza? Perché i contenuti ce ne furono tanti, di cui molte volte si è anche eclissato e nascosto, eppure insomma chi c'è stato e chi può leggere e raccontare anche leggendo in rete, insomma, di comunicati se ne trovano tantissimi. Parliamo dei giornalisti. Radio Gap a un certo punto parla e racconta dei giornalisti che decidono di arrivare a Genova, in particolare Radio Gap intervista Sandro Curzi. Praticamente sono stato per alcune ore sequestrato. C'era questo aereo che arrivava da Roma, voi sapete che l'aeroporto era chiuso, e hanno fatto un volo speciale all'Italia per portare i 150 giornalisti. Arrivati all'aeroporto, dove quando si atterra sembrava di essere arrivati a Beirut, non una città europea, e poi sono caricati su un pullman e siamo stati sequestrati fino quasi alle 7 di ieri sera. Ieri c'erano per esempio dei personaggi strani che secondo me erano più degli ufficiali di forze militari che non erano certo degli addetti stampa, i quali raccontavano notizie le più diverse, le più strane. Io ho visto anche delle cose che non mi sono piaciute, per esempio dei personaggi dentro la zona rossa con la maglietta di Che Guevara. Che parlavano seduti per terra amichevolmente con altre persone che non avevano né permessi né lascio passare né niente, che erano chiaramente degli agenti del non so se carabinieri o agenti della Polizia di Stato. Anche questo è un po' strano, come anche l'utilizzazione per esempio di alcune tessere giornalistiche per spacciarsi come giornalisti e invece erano persone che non facevano questo lavoro. Quindi c'è stato qualcosa di brutto e di strano. E l'impressione poi avuta è che nessuno volesse isolare il gruppo che ha fatto le devastazioni e che anzi è stata favorita la presenza loro salvaguardata, quasi protetta. Spero che alla Camera si levino delle voci anche documentate su quello che è accaduto ieri a Genova. Non è una giornata da dimenticare. Io adesso non voglio, io nei giorni scorsi mi ero rifiutato di parlare strategia della tensione e così via. Ieri è accaduto qualche cosa che deve essere seriamente indagato, perché altrimenti rimarrà un'altra pagina buia della storia del nostro paese. Allora, questo è il commento di Sandro Curzi, evidentemente il giorno dopo di quel venerdì, di questo venerdì. Diciamo che insomma lui un po' esprime quella che era stata ed è tuttora purtroppo l'opinione di molte persone. Si parla di infiltrati, si parla di black bloc, si parla della polizia che ha lasciato fare, che invece ha attaccato quell'altro e via dicendo. Sicuramente il clima che c'era in quelle giornate era alto un po' da tutte le parti, un po' l'avete sentito nelle dichiarazioni che vi ho letto prima invaderemo le zone rosse non ci lasceremo fermare e via dicendo, quindi un po' evidentemente le parole hanno un peso, per cui andare a Genova insomma ci si è andati anche con una certa determinazione e con tutto che insomma c'è stato questo clima terribile anche da parte della polizia, ripeto, a trattare con il Genova Social Forum non era certo il governo Berlusconi, perché non era la politica ma era il capo della polizia Gianni De Gennaro, quindi il clima era un po' questo. Furono allestiti diversi posti per dormire, c'era lo stadio Carlini per quanto riguardava le tute bianche, c'erano altri stadi, altri posti, appunto c'era la Diaz e il Media Center per quanto riguarda i media. E si arriva insomma a Genova in cui Radio Gap racconta anche, diciamo così, la conferenza stampa di Agnoletto sull'accensione delle frequenze di Radio Gap ma si arriva a Genova con una prima grande manifestazione che è quella dei migranti. Siamo nel luglio del 2001, non siamo nel luglio del 2012. Già allora si parlava di migranti, si parlava di costruzione dei CIE. Ricordiamo che i CIE, allora oggi si chiamano CIE, Questi lager furono iniziati a costruire già alla fine degli anni 90. La possibilità di muoversi era consentita solo ed esclusivamente alle merci, non tanto alle persone. Le merci, piuttosto che le vetrine, che valgono più delle persone, era un dato di fatto già allora, nel 2001, per cui le merci potevano passare. Fu fatta in occasione di Davos, mi ricordo, in Svizzera, dove c'erano sempre questi vertici, in cui non si fece arrivare la gente a manifestare, e in quegli anni appunto si portarono delle grosse scatole, si cercò di nascondersi dentro le scatole per poter attraversare i confini. Confini che appunto, anche se l'Europa era ormai si stava ormai approcciando all'euro, quindi si stava aprendo a quella che sarebbe stata una comunione di denaro, ma non si stava aprendo a una comunione di scambio delle persone. Nel 1999, alle porte di Roma, in quella stessa ponte galleria dove si stava allenando la celere per poi andare a Genova, quel battaglione, insomma il settimo battaglione, si venne costruito appunto un lager per migranti. Quindi il primo corteo grosso, le prime parole d'ordine di Genova erano abbastanza forti. Il primo corteo fu un corteo pacifico, partecipatissimo, dove si portarono al centro appunto proprio i migranti. Noi vogliamo poter circolare, andare dove vogliamo, non ci devono essere frontiere, non ci devono essere le persone non possono essere scambiate solo ed esclusivamente per sottostare le leggi del denaro, per cui se mi serve una badante ti faccio arrivare, ti pago e ti faccio arrivare. Se invece sono io, una libera persona che decide che vuole cambiare paese, vuole lavorare in un'altra parte e via dicendo, questo non si può fare. Ed è proprio di questo corteo, del primo corteo dei migranti, che Radio Gap ne racconta un po' la sintesi e alcune testimonianze. Io sono fermo in piazza Sarzano da quando è partito il corteo. Ho visto passare sigle su sigle, ma soprattutto persone differentissime tra loro. Non so se vi hanno già raccontato, comunque dall'inizio il corteo è stato aperto dall'Associazione degli Immigrati di Genova, e poi i Disobbedienti, poi Rifondazione, poi i Cobas, poi il Sud Ribelle, poi Attac, e poi gli anarchici, ora ci sono i Giovani Comunisti di Torino, poi gli studenti, uno striscione dietro l'altro. Noi siamo in piazzale San Francesco d'Assisi, proprio qui sul mare, stiamo vedendo sfilare la testa del corteo, c'è un fiume di gente, in questo punto dove siamo noi non c'è neanche uno sbirro, nessuna faccia brutta, tutta gente contenta, allegra, colorata, è una cosa bellissima, è proprio insomma, una grande festa. Il corteo è aperto dai senegalesi, hanno un grandissimo striscione con scritto libertà di movimento, libertà senza confine, e sono tanti, dopodiché ci sono i curdi con tante bandiere, uno striscione libertà per Ocalan. Poi ci sono dietro tutta una serie di associazioni, c'è un sacco di gente, ci sono le comunità latinoamericane, c'è la rete Lilliput poi gira con una corda con i panni stesi, che sono carinissimi, hanno tutte le mutande, le magliettine appese, insomma è una cosa carina. E dopo di loro ci sono lungo il corteo la CGL, la CUB e l'RDB che hanno fatto come una sorta di spezzone tutto insieme. In questo momento davanti a me sta passando Attac Tunisia. Io sono senegalese e mi chiamo Falou e niente, abito qui a Genova da 10 anni. Oggi sono venuto a manifestare per i diritti di tutti gli emigrati che si trovano comunque nel mondo. Noi vogliamo soltanto di essere in regola, di avere lo stesso diritto come gli italiani, di poter circolare tranquillamente, non ogni due passi che fai c'è la polizia che ti controlla, che insomma vogliamo essere tranquilli, vivere come delle persone normali, tutto lì, chiediamo soltanto questo. No, gli emigrati, alcune che conosco io che non hanno partecipato a questa manifestazione per il semplice motivo dei controlli, perché già a 10 giorni da questo G8 tanti ragazzi sono dovuti andare via, perché comunque ogni passo che fai nel centro storico ti chiedono documento. Questa era la manifestazione dei migranti. Siamo a giovedì 19 luglio del 2001. Sembrerebbe quasi una manifestazione con delle parole d'ordine del 2012. Si parla di permesso di soggiorno, si parla di libertà di circolare delle persone, si parla contro la repressione nei confronti dei migranti che già allora venivano rinchiusi, si cominciava già allora a rinchiuderle dentro dei lager. E nelle testimonianze, insomma, avete sentito un po' qual era il clima. Le forze dell'ordine non erano presenti, ma intanto a Genova si continuava a costruire delle inferriate, continuavano a costruire, ad aggrappare sui palazzi antichissimi il cemento, si continuavano a mettere uno sopra l'altro tantissimi container. Chi è che non ha visto le immagini, le foto di quel Genova del 2001 con container ovunque, proprio come se appunto con questa forza delle merci, con questa forza del trasbordo delle merci si volesse contrastare quello delle persone. E quindi siamo a giovedì e si parla di una manifestazione di ben 50.000 persone, e non poche per il primo corteo di Genova, e in rete trovate anche un po' di foto. Quindi lo spirito, diciamo così, di Genova era uno spirito che subito si era diffuso un po' in tutta Italia. Tantissimi furono i treni che partirono il giovedì sera, tantissime furono le persone che proprio su questo clima decisero di prendere treni notturni e salire a Genova. Ancora allora si potevano prendere dei treni senza comunque con biglietti collettivi, piuttosto che c'era più un po' più di circolazione, c'erano i treni notturni soprattutto. Quindi l'arrivo in massa a Genova avvenne tanto durante il venerdì notte, ma il clima venerdì mattina, appena la città di Genova si è svegliata, era completamente diverso e completamente opposto. Ci andiamo a sentire adesso una corrispondenza, sempre la prendiamo, insomma stiamo ricostruendo un po' Genova di allora tramite le voci, le parole di Radio Gap. Radio Onda Rossa appunto si recò a Genova con il circuito di Radio Gap e attraverso i suoi microfoni, insomma, la ricostruiamo 11 anni fa un po' quello che è stato il clima di allora. La descrizione che vi ho dato prima, insomma, di queste fortificazioni, c'è da sottolineare che non sono la zona rossa, anzi sono molto molto molto distanti dalla zona rossa. Quindi, diciamo così, è stata eretta in una notte questa nuova fortificazione da mettere in mezzo per impedire ulteriormente la libertà di manifestare, scendendo invece verso in direzione sud, diciamo così, dopo questa via di Piazza Novi c'è un'altra piccola piazzetta dove invece sono schierati i carabinieri con una bardatura, un'attrezzatura abbastanza impressionante, fazzoletti tirati sul volto, quasi dovesse succedere qualcosa da un momento all'altro, ovviamente gli scudi e i manganelli, non quelli classici, i bastoni, ma proprio quelli con il manico, sono bardati con, se ricordano, i veri e propri Robocop di Seattle. Insomma, l'atmosfera, devo dire sinceramente, è abbastanza tesa anche tra i manifestanti. Sicuramente questo schieramento di polizia contribuisce molto a creare questa atmosfera, comunque accanto alla voglia di violare la zona rossa c'è anche tanta voglia di discutere e di dare contenuto a questa giornata. Si parlerà di conflitto capitale lavoro e agricoltura, organismi geneticamente modificati e insomma appunto cerca di puntare molto anche al contenuto. In questo momento mi trovo invece in via Paolo Antonini all'incrocio di piazza dove è schierata, dove c'è la prima barriera di polizia. Vi descrivo un attimo la situazione, sì, che mi trovo davanti. C'è una vera e propria cancellata, una vera e propria barriera dietro la quale ci sono almeno 1, 2, 3 blindati della polizia e dietro la quale ci sono una ventina di celerini, chiaramente in assetto antisommossa. Dietro di loro ci sono altri blindati disseminati tutta la strada e da un centinaio di metri di distanza addirittura c'è uno schieramento di un celer in assetto antisommossa, ma che sicuramente possiamo conteggiare nell'ordine delle centinaia. Credo che già questo dia l'idea di che tipo di blindatura sia stata fatta. il clima, se da una parte il manifestante è allibito, ma vedo anche dei cittadini genovesi che guardano assolutamente perplessi questa situazione, dall'altra mi sembra di vedere nelle facce della polizia già una certa tensione, sono già tutti pronti, schierati addirittura con sui fazzoletti, in una situazione in cui di manifestanti non ce ne sono assolutamente, se non qualche gruppetto sparuto che addirittura sta parlando con qualcuno della polizia. Credo che questo già renda bene l'idea della situazione. Diverse associazioni hanno fatto dei banchetti come Commercio Ecosolidale, Mani Tese e anche alcune delle associazioni che fanno capo alla rete Lilliput. Significativo è il fatto che non c'è nessuna presenza delle forze dell'ordine, non c'è un vigile, non c'è un poliziotto, non c'è nessuno, e la persona più molesta è un signore anziano che va in giro con una campana e fa insomma un po' di rumore. In un secondo momento, in tarda mattinata, un gruppo si sposterà e scenderà giù verso la zona rossa e farà dei blocchi pacifici, dei sit-in intorno alla zona rossa. Un altro gruppo invece darà vita a delle animazioni come per esempio il lancio dei palloncini colorati, danze, del coordinamento delle donne, proprio a testimoniare, a simboleggiare un'invasione pacifica della zona rossa. Questo è il clima, insomma, che si respira venerdì mattina, un clima però che vede, insomma, appunto diversi gruppi, insomma Genova è grande, diverse gruppi avevano deciso nelle giornate prima di anche dividere le zone, appunto c'era la piazza che era stata chiesta dal network antagonista e dai Cobas, c'era la rete Lilliput, piuttosto che Greenpeace aveva fatto un assalto in mare a una nave della ESSO per riportare l'attenzione su gli accordi di Kyoto, si parla, insomma, c'era lo stadio Carlini dei disobbedienti e altri c'era un altro campeggio dell'area antagoniste e via dicendo. Quindi, diciamo, le manifestazioni un po' della mattina si sarebbero sviluppate in orari diversi, anche in zone più o meno diverse. Non viene raccontato da questi audio invece il clima per quanto riguardava tutti gli internazionali. Io, insomma, mi ricordo abbastanza bene quelle che furono le i fermi che fecero addirittura le navi che arrivavano, che volevano arrivare dalla Grecia, penso ai caravan tipici dei compagni e delle compagne tedesche che volevano arrivare dalla Germania piuttosto che alla Francia. Le frontiere furono chiuse tanto, il clima fu fatto tanto alzare da questa impossibilità alle persone, soprattutto internazionali, di arrivare a Genova. Si è parlato prima, avete sentito, il giovedì, insomma, tanta la presenza dei curdi, sicuramente la comunità che in quegli anni portava molto forte le loro rivendicazioni contro il governo turco e per la liberazione di Öcalan. Ricordiamo che nel 1999 Öcalan fu venduto dal governo D'Alema proprio alla polizia turca e tuttora, insomma, si trova sull'isola di Imrali rinchiuso, insomma, dal 1999. Di quelle giornate, di quegli anni si portano tante, appunto, conseguenze, di quelle che furono le tante ribellioni a Roma, insomma, i curdi li vise, Öcalan lo visse in maniera molto forte per la tendopoli che ci fu, insomma, e quindi grossa fu la comunità curda che arrivò a Genova, ma tante altre dovettero, insomma, faticare un pochetto, soprattutto compagni e compagni, ripeto, dalla Grecia piuttosto che dalla Germania e via dicendo. Se arriva il venerdì mattina, dicevo, su un sito potete, insomma, se lo volete anche leggere, quelle che furono tutte le dichiarazioni, le agenzie ANSA che uscirono in quei giorni. Ovviamente l'ANSA, quindi si prende con le pinze, però il sito, insomma, è quello del Fatto Quotidiano. Un'ANSA delle 7:05 della mattina dice: manifestanti, treno anti-global verso Genova su pullman. Sono stati fatti salire dalla polizia francese su 6 pullman i circa 300 manifestanti anti-global che erano a bordo del treno proveniente da Londra e diretto a Ventimiglia, deviato in nottata a Modane. Una giornalista freelance che era a bordo del convoglio ha riferito che la polizia francese ha detto ai dimostranti che li avrebbe trasferiti a Genova con i pullman. Qui non lo dice, ma insomma tantissime furono le persone schedate che per arrivare a Genova dovettero dare i propri documenti, che non li facevano entrare appunto se non fatti appunto schedati ad uno. E alle 10:16 un'altra agenzia parla del è partito stamane alle 8:35 dalla stazione di Porta Nuova con 10 minuti di ritardo il terzo e ultimo treno speciale organizzato dal Torino Social Forum per portare a Genova i manifestanti che parteciperanno alle iniziative contro il G8. Intanto stamattina altri due falsi allarme bomba hanno mobilitato le forze dell'ordine. Insomma, stiamo parlando del venerdì mattina, sono 180 i militanti, circa 150 siamo prenotati nei giorni scorsi, che sono partiti con tre carrozze straordinarie aggiunte al treno diretto per 9 ligure. Poi si parla di pullman e via dicendo. Lo spiegamento di poliziotti impegnati nei controlli era molto minore di quello del primo giorno, sono stati sequestrati solo 2 o 3 caschi di plastica e via dicendo, di quelli di gialli da muratore. E insomma, questo piano piano appunto, quindi già si continua il venerdì mattina ad arrivare a Genova. Sono le 12:25, le manifestazioni, insomma la prima principale, quella un po' più che era partita un po' da prima, cioè quella a Piazza Novi organizzata dai Cobas e dal network antagonista, si erano già radunate e alle 12, stiamo parlando della mattina del venerdì, alle 12:25 come avete sentito dalla corrispondenza di prima, le forze dell'ordine quasi non si vedevano, poi all'improvviso insomma le migliaia di poliziotti, carabinieri e finanza, la finanza non viene mai nominata in queste giornate, sia a Genova che soprattutto a Napoli a marzo del 2001 ebbe un ruolo non poco importante, anzi di grande rilievo. Comunque sia la finanza che i carabinieri che la polizia verso mezzogiorno cominciano a uscire, i blindati cominciano a circolare, cominciano a concentrarsi laddove c'erano le principali appunto appuntamenti, si parla in particolare di Piazza da Novi, ed iniziano le prime cariche. C'è in corso una carica in corso Torino contro il concentramento delle realtà straniere che sono qui nel blocco del network. In questo momento probabilmente è stata una carica di alleggerimento perché noi stavamo seguendo il blocco rosa e ci eravamo quindi spostati su corso Torino. Adesso abbiamo visto i compagni che correvano lì indietro. La polizia ha fatto praticamente un'azione a tenaglia per chiudere le realtà straniere. Ci sono anche alcune vetrine del Credito Italiano che sono state frantumate da sassate, e in questo momento praticamente la circolazione stradale qua è bloccata. Ecco, mentre non vedo più in questo momento il furgone dei Cobas da cui si doveva tenere praticamente il comizio anche con Ebe De Bonafini, la madre del Plaza de Mayo, e il leader della Confederazione Paisen, Giuseppe Bové. La polizia sta praticamente arrivando a plotoni da Piazza Novi verso la manifestazione, sì. Una cosa impressionante, perché stanno praticamente battendo il passo a plotoni, a gruppi, c'è chi batte sullo scudo per dare il ritmo, tutti questi caschi blu si stanno tutti quanti muovendo a plotoni. Ecco, ci dicono qui che questa è la cesare di Roma, con le maschere antigas, i caschi sono più sciolti degli altri, nel senso che non vanno avanti con il passo da esercito praticamente, e quindi tutti i plotoni, il resto della polizia, non credo per arrivare a caricare il corteo, ma per arrivare a provocare fondamentalmente, si sta dirigendo verso la manifestazione da Piazza Novi. Questa è una delle prime corrispondenze appunto da Piazza Novi, dove le cariche avvengono subito. In realtà ancor prima che ci possano essere qualsiasi scontro, i poliziotti caricano con violenza, battendo quello che poi verrà ripetutamente visto nella televisione si sentirà, poi rimarrà nelle orecchie dei manifestanti, il battito del manganello sugli scudi a ritmo insomma militare, di avanzata quasi militare, addirittura insomma l'ANSA titola e dice che uno dei primi ad essere pistato di botte sono gli infermieri. E su questo, insomma, diversi video di Indie Media, io vi invito, per chi volesse, ce n'è uno che si fece subito, che si chiama Aggiornamento numero 1. Una delle prime persone che furono picchiate selvaggiamente, ricordiamo le violenze avvengono soprattutto spaccando le teste, è appunto proprio un medico che ha proprio la maglietta di soccorso, la classica croce, della Croce Rossa, insomma, che c'era questo soccorso autogestito dagli infermieri, come il pool di avvocati che veniva, insomma, che aveva sede sempre dentro il Media Center, che appunto si trovava nelle piazze perché tante gente, c'era tante 300.000 persone, insomma, poteva sempre servire un aiuto quando c'è tante persone. Eppure le prime cariche avvengono nei confronti di queste, soprattutto di questo infermiere. In piazza Savonarola la carica della polizia ha colpito per errore un infermiere professionale che stava telefonando in una cabina. Diciamo che io me li ricordo gli infermieri con le magliette bianche e la appunto il segno rosso. Mi ricordo anche come urlava questo infermiere: sono un infermiere, che aveva il volto coperto da un fazzoletto per proteggersi dai lacrimogeni. I poliziotti gli sono avventati addosso nonostante urlasse: sono un medico. Decine di manganellate, di calci, anche quando l'uomo era a terra. L'uomo è stato poi soccorso dal gruppo medico del Genova Social Forum e portato in ospedale. Qui vabbè, cita il nome e dice: ed è in salvo. In salvo da chi? In salvo dalle forze dell'ordine. È un infermiere professionale venuto da Pescara. Guardate come mi hanno conciato, ha detto, e pensare che era venuto qui per curare la gente, incredibile. Tantissimi furono i poliziotti che spruzzavano i spray, quelli non tanto orticanti ma quelli paralizzanti, per poter poi picchiare selvaggiamente le persone. Questo avveniva all'ANSA delle 12:48, quindi stiamo parlando di 10 minuti dopo la corrispondenza che avete ascoltato. Quindi praticamente le prime cariche che avvengono della polizia avvengono proprio nei confronti di questo concentramento e delle persone che si trovavano lì, appunto, ripeto, i medici in questo caso. Questo perché in questi giorni, insomma, l'abbiamo visto nelle diverse sentenze. Io poi non voglio più di tanto, insomma, fare commentare, però questa questione dell'ordine pubblico, di chi sovverte l'ordine pubblico e di chi non lascia manifestare il libero pensiero alle altre persone, insomma, penso che mai come questi racconti e queste testimonianze date da diverse fonti, dai media mainstream a quelli nostri autogestiti, possano raccontare. E continuiamo, si parla, insomma, di continuo le cariche, ce ne andiamo a ascoltare altre. Ecco, allora la polizia ha occupato l'incrocio dove è stata distrutta la banca e alcuni giovani sono ancora presenti in questo slargo, stanno lanciando alcuni oggetti nei confronti, appunto, dei coordinatori di polizia, che sono comunque fermi. È stato dato fuoco a un cassonetto dei rifiuti, per cui c'è un fumo abbastanza acre nella piazza. Non sono in testa ma sono in coda, oltretutto non si può parlare di un corteo ma di due. Uno è quello dei Cobas, del network, con in testa il gruppo dei Paisien, che sta girando verso sinistra e va verso il mare. L'altro è quello del gruppo anarchico, che ancora non si capisce bene dove va. Le guardie si stanno avvicinando, sono in assetto da testuggine, come ormai siamo abituati a vederli, e per il momento non caricano. Sentiamo la puzza dei primi lacrimogeni, che vuol dire che la carica che c'è stata più avanti sta arrivando qui. Però la polizia ancora non corre, è ferma e cerca di avvicinarsi lentamente al corteo. Comunque il corteo non è così nutrito e è molto soggetto a eventuali provocazioni della polizia. La polizia sta avanzando adesso, sta avanzando e si sta dirigendo verso il corteo. Allora, Corso Torino, sono partiti i lacrimogeni, il corteo sta defluendo verso la parte opposta alla zona rossa. Adesso io attraverso la strada, se no mi ritrovo tagliato fuori. Ci sono i cassonetti rovesciati, è difficile respirare. Thank you. Allora, questo avete un po' sentito, quella che era il clima alle manifestazioni, già c'era stata una carica ben prima, qui adesso sono le 13 e sono super giù insomma verso le 13 e nel frattempo insomma questa è una parte della città di Genova, nel frattempo c'è il corteo dei Pink, c'è il corteo a Piazza Manin della rete Lilliput e si sta preparando poi il corteo che uscirà dal Carlini e questo insomma ognuno nelle sue forme con le sue modalità cercherà di arrivare, voleva arrivare verso la zona rossa. Le immagini insomma se ne vedranno in quei giorni del Pierrot che viene, a cui viene tirata l'acqua e via dicendo, di, appunto perché poi la zona rossa era completamente chiusa dalle grate, quasi nessuno ci riuscirà ad arrivare perché già dalla zona gialla, quella famosa zona gialla, poi ci saranno e inizieranno le cariche. Sono le andiamo a sentire, sono le 13.45, viene accerchiato, attaccato con un fitto lancio di lacrimogeni il Converse Center del GSF in Piazzale Kennedy, area in cui confluivano diversi cortei. Quindi prima di tutto parte la carica a Piazza Danovi, a Piazzale Kennedy per chi insomma c'era a Genova, si trovava abbastanza lontana, eppure alle 13.45 parte la carica. Quello che temevamo sta accadendo, oltre 500 poliziotti da Ponente e Levante, stanno arrivando anche un gruppo di poliziotti dalla parte alta che avanzano sparando lacrimogeni e stanno sparando lacrimogeni dentro via Kennedy, dentro il Converger Center, di fatto stanno attaccando, ora si sta chiuso il cancello e si stanno formando delle barricate, noi siamo chiusi dentro qui all'interno di via Kennedy, ma questi continuano ad avanzare e sparare lacrimogeni dentro. Ora stiamo correndo tutti verso il mare perché non si fermano, non si stanno fermando, stanno sparando i lacrimogeni dentro. Adesso si stanno veramente attaccando e ci stanno attaccando per fare del male. È veramente incredibile. Stanno attaccando il Converger Center. Non sono all'interno, però sono fuori sul cancello. Sì. Non siamo più in una dinamica di piazza. In questo momento di scontri non ce ne sono. Ci stanno semplicemente sparando lacrimogeni dentro e temo che il prossimo passo sia quello di cercare di entrare. E questo sarebbe effettivamente gravissimo. Ci sono cinque motovedette, credo di carabiniere, guardia di finanza, che stanno praticamente attaccando il Converger Center pure dal mare e lo stanno espugnando praticamente. C'è una via di fuga dalla spiaggia, spero che adesso non si mettano pure con le navi sulla spiaggia e ci chiudono pure quella. Adesso davanti al cancello non è rimasto più nessuno, è rimasta solo questa barricata. Tra l'altro è, temo, abbastanza inutile, visto che non è che dagli altri angoli sia un forte inattaccabile. Qui c'è stato praticamente, c'era tutto lo schieramento della polizia su tutti i fronti, e sono entrati dentro a Piazzale Kennedy, e cercando chiaramente il modo per entrare con i mezzi che prima non avevano e poi invece hanno sfondato la cancellata. Sono entrati e hanno cercato di fare piazza pulita prendendosi, io ho visto almeno 4-5 persone si sono prese, comunque ci sono gli avvocati qui intorno. Poi sono accorsi lungo tutta la strada del lungomare e con un carro armato Caterpillar e stavano cercando di attaccare praticamente gente che veniva invece da quest'altra parte. Quindi siamo a Piazzale Kennedy sul lungomare, la polizia schiera addirittura i carri armati contro la manifestazione. Sono quasi le 16, dal Stadio Carlini si comincia a preparare la manifestazione dell'allora Tute Bianche che appunto doveva svolgersi verso via Tolemaide. L'ispettore disobbediente è entrato in contatto con la polizia, o più precisamente i carabinieri, all'altezza di Corso Torino. Qua praticamente c'è stato prima il fitto lancio di lacrimogeni e poi la carica contro il corteo. Da quello che ho potuto vedere non ho avuto l'impressione che le barriere messe in piedi dal corteo disobbediente abbiano resistito tanto a lungo, anche perché i carabinieri credo che siano entrati anche da alcune vie laterali e comunque abbastanza improvvisamente c'è stata la carica. A questo punto diciamo il corteo è stato diviso in più pezzi. Allora, c'è stato un pezzo che ha fatto veramente una grossa resistenza all'altezza di un corso laterale a Corso Torino, di cui adesso non ricordo il nome. Qua c'è stato un fronteggiamento violentissimo. I carabinieri hanno cercato diverse volte di sfondare le barricate ma sono stati respinti diverse volte, per cui praticamente riuscivano ad andare avanti una decina di metri e poi erano costretti a indietreggiare. Nel momento ho visto anche parecchi carabinieri che abbandonavano, diciamo, le prime linee, tornavano indietro con delle contusioni, alcuni di loro avevano anche gli scudi sfasciati, per cui immagino che ci siano stati anche dei corpi a corpi abbastanza violenti in testa. Dopodiché a un certo punto, vabbè, i carabinieri sono comunque riusciti a entrare e questo spezzone qua è stato disperso. Il grosso dello spezzone disobbediente in questo momento sta tornando indietro, o comunque è fermo, in questo momento è fermo lungo il vialone che porta alla stazione Brignola. In questo momento qua la situazione pare abbastanza tranquilla. Diciamo che a un certo punto ci sono state anche delle persone che sono salite lungo il viadotto delle rotaie e hanno effettuato una sassaiola contro i carabinieri dal di sopra, insomma, ecco. Nel casino generale alcuni hanno trovato dei bossoli di fucile e li hanno fatti vedere ai giornalisti e ho potuto vedere anche diverse persone che sono state fermate, dei blindati che sono già partiti con parecchie persone a bordo. Allora, questo è il corteo partito dal Carlini che su via Tolemaide del tutto improvvisamente viene caricato del tutto arbitrariamente, visto che il corteo era stato autorizzato dai carabinieri. Dallo spezzone, da diverse insomma parti della città si inneggia comunque contro i fantomatici gruppi di Black Bloc che stavano devastando, che stavano insomma facendo gli scontri in città, e questo mentre appunto la polizia e i carabinieri decidono di caricare lo spezzone, e quella carica insomma abbastanza violenta, da qui poi il corteo si disperde in una via che era del tutto chiusa, per cui non si poteva assolutamente scappare. E parallelamente c'è un'altra carica, quella che sarà poi piazza Manin, che è la piazza della rete Lilliput, anche lì con la scusa che si dovevano cercare fantomatici Black Bloc, la polizia carica violentemente la rete Lilliput, che stava manifestando con le mani alzate, le mani bianche, e dove sarà pure la piazza dove ci saranno poi la maggior parte dei feriti. Nel frattempo alle 16:40 vicino a Piazza Dante una spezzone di attacco attraversa temporaneamente la zona rossa, riescono a varcare la zona rossa qualche persona muovendosi da Piazza Dante, però appunto subito dopo vengono caricati. Tutta Piazza Dante sull'lato trasennata circolarmente, al centro di tutta questa transenne, che sono le reti che hanno messo, c'è una porta, un varco, un cancellone di tondini. Bene, questo cancellone di tondini era tenuto da una catena, questa catena è stato aperto il lucchetto, quindi in questo momento per 5 minuti le due grandi porte hanno oscillato avanti e indietro. Alle spalle c'è una seconda barriera che è fatta di rete come quella che costituisce tutto il perimetro, quella è rimasta ferma, tenuta ferma da un blindo della polizia. Appena si sono aperti i cancelloni, chiaramente loro sono venuti avanti con la macchina, con l'autopompa, e hanno innaffiato con ettolitri d'acqua tutte le persone che stavano lì di fianco. Per fortuna non sono saltati i nervi, non sono partiti lacrimogeni, questo è stato deciso dall'altra parte, quindi c'è stata per 3-4 minuti una scena assolutamente surreale, con la macchina che innaffiava una nube d'acqua sul cancellone che oscillava spalancato, e tutto un cerchio di persone che gridavano Genova libera, tutto intorno, una specie di enorme pubblico di questo varco aperto che non veniva attraversato perché c'era dietro un'altra barriera che veniva innaffiato dai soliti d'acqua delle autopompe della polizia. Adesso il cancello è di nuovo chiuso, non so se è chiuso stabilmente o semplicemente accostato, e la situazione è tornata tranquillissima. A Piazza Dante le cose erano andate in maniera abbastanza tranquilla, Attacca era riuscito a violare la linea rossa questo pomeriggio guadagnandosi semplicemente qualche spruzzo di idrante con materiale orticante, ma la situazione è rimasta più o meno pacifica. Nel momento in cui abbiamo deciso di tornare a Piazzale Kennedy, del resto insieme a tutti gli altri cortei, ci siamo avviati, siamo tornati indietro nella sostanza, e la polizia ha deciso proprio in quel momento, così come puro gesto di commiato, in maniera del tutto gratuita, di caricarci alle spalle. E hanno sparato lacrimogeni e sono state coinvolte molte persone, fra cui vedo anche qui davanti a me Vittorio Agnoletto con gli occhi rossi e Nicky Vendola, anche lui coinvolto in questi fumi di lacrimogeni. Ma la cosa sorprendente, appunto, sorprendente se vogliamo, insomma, la cosa direi odiosa, è che questa carica è stata una carica del tutto gratuita. L'ANSA intitolerà: la zona rossa è stata violata in Piazza Dante da quattro giovani che sono riusciti a sfondare il varco di accesso. La polizia ha cercato di respingere l'assalto con gli idranti allontanando un gruppo più folto che tentava di entrare. E ancora, gli anarchici hanno attaccato il carcere di Marassi, vengono lanciate bottiglie Molotov e sassi, sono state infrante le vetrine, le finestre degli uffici al primo piano. Tre bottiglie Molotov sono state lanciate contro il portone e le finestre del carcere, bersagliate anche da una grandinata di sassi. Una persiana ha preso fuoco, due furgoni e tre auto dei carabinieri che presidiavano l'istituto di pena hanno tentato una reazione con un carosello. I militari hanno lanciato lacrimogeni ma hanno dovuto ripiegare per inferiorità numerica. E ancora G8, proteste, violazione simbolica zona rossa, sale la tensione dopo un primo momento di calma seguito alla violazione simbolica della zona rossa compiuta dai quattro ragazzi in Piazza Dante. Sta salendo la tensione, i manifestanti premono infatti sulla grata che viene sostenuta all'interno della zona rossa da un autoblindo. Due mezzi della forestale sui quali sono montati degli idranti hanno acceso i motori e sono pronti ad intervenire. Cariche a Piazza Manin, la polizia ha caricato in Piazza Manin il gruppo anarchici Black Bloc che era davanti al presidio della rete Lilliput dei pacifisti e delle donne. Alcuni dimostranti, dai quali la parlamentare Elettra Deiana, sono rimasti feriti. I pacifisti della rete Lilliput e l'onorevole Deiana erano seduti per terra con le mani alzate, dipinte di bianco. Quando la polizia ha lanciato i lacrimogeni e caricato gli anarchici, sono stati travolti anche loro e sono rimasti feriti. Il gruppo degli anarchici ha proseguito la sua azione come se nulla fosse accaduto e si è attestato in via Palestro. Da qui, approfittando della strada in discesa, ha cominciato a mettere cassonetti di traverso. Questo quello che ricordiamo, insomma, leggo dall'ANSA, da tutte le ANSA di allora. Si continua a parlare anche dell'emittente Sky, che alle 16:18, quindi ben un'ora prima che venisse ucciso Carlo Giuliani, parla di un poliziotto che ha sparato colpi di arma da fuoco in aria a Genova. Secondo il racconto fatto dall'inviata di Sky, l'agente era stato circondato da un gruppo di manifestanti. Agnoletto alle 16:51 ha invitato con un megafono i manifestanti in Piazza Dante a lasciare la piazza. Così accolto l'appello del sindaco Pericu, i dimostranti pacifici si stanno già ritirando, abbiamo vinto, ha ripetuto due volte in italiano e una volta in inglese. Perfino il sindaco della città ha detto che la polizia ha esagerato. Il leader del GSF ha quindi invitato i manifestanti a lasciare la piazza. E poi arriviamo, insomma, quasi alle 17, alle 17:25, appunto, quando verrà ucciso Carlo Giuliani. Questo il clima della città, insomma, un po' ve l'abbiamo raccontato. Le cariche indiscriminate delle forze dell'ordine un po' ovunque, a tutti i cortei che c'erano stati in quelle giornate. E già alle 16:18 Sky parlava di proiettili che erano stati sparati dai poliziotti, quindi il clima, insomma, anche di protezione da parte dei manifestanti era inevitabile. E alle 17:25 Mario Placanica spara e uccide Carlo Giuliani. Vista mentre veniva colpita da proiettili al collo, alla testa del corteo. Questa è confermata da chi ha visto qui nel corteo questo. Per cui io la prendo per buona, ho parlato anche con dei responsabili del corteo e che hanno visto. I colpi sparati io li ho visti, per cui la prendo per buona. Sullo stato di salute di questa persona non so che dirvi, ma sicuramente è stata colpita al collo. Praticamente circa mezz'ora fa, durante un'azione un po' estrema, però abbiamo sfondato i carabinieri, è arrivata la polizia e ha iniziato a sparare lacrimogeni, non so dire se anche proiettili. Un ragazzo 5 metri da me è stato colpito in faccia, credo sia morto perché è da mezz'ora che non si muove e nessuno fa niente. Io sono avanzato davanti a questo ragazzo con le mani alzate, ma la polizia ha continuato a lanciare lacrimogeni, ha caricato, e una volta arrivato il ragazzo a cerchio si sono chiusi. È avvenuta in piazza Gaetano Alimonda. Assassini! Assassini! Assassini! Assassini! È venerdì 20 luglio del 2001, oggi è sempre venerdì 20 luglio del 2012. Abbiamo un po' cercato di riproporre attraverso l'audio di Radio Gap quella che è stata la giornata, le due giornate di giovedì e venerdì, un po' il clima fino all'uccisione di Carlo Giuliani. Diciamo che ci fermeremo qui, quello che poi è successo il giorno dopo, cioè il sabato 21 luglio, con tutto che era stato, con tutto questo clima, con tutta questa con l'uccisione di Carlo Giuliani, tantissime altre migliaia di persone salirono con i treni, con i pullman da un po' da tutta Europa, ma non solo, e affollarono la grossissima manifestazione del sabato 21 luglio. Una manifestazione che fu subito caricata, che fu subito spezzata, che fu subito voluta annullare dalle forze dell'ordine, e di questo insomma vi possiamo riproporre una brevissima corrispondenza sempre da Radio Gap, che racconta sempre quella che è stata il piazzale Kennedy. Poliziotti con il blindato alle spalle sono scesi di corsa, manganelli in mano, ho visto personalmente un ragazzo, è stato anche fotografato e ripreso, gli hanno dato alcune botte sulla testa e sulla schiena e poi l'hanno ammanettato tenendogli le ginocchia sulla schiena. Un atto completamente gratuito di violenza, sembrano tutti esaltati, siamo dietro Corso Gastaldi, continuano ad arrivare furgoni blindati, si stanno divertendo a fare caccia all'uomo, stanno giocando alla guerra contro un avversario che chiaramente non ha le loro armi. Eravamo sul lungo lago e ad un certo punto la polizia ha caricato. Noi del GSF Sanità praticamente stavamo soccorrendo delle persone, abbiamo chiamato l'ambulanza per soccorrere tre persone, una gravemente ferita a una mano, un'arteria della mano, l'hanno dovuta portare all'ospedale, una signora con un principio di infarto, l'abbiamo fatta raccogliere e nello stesso tempo la polizia ci ha caricato ed è arrivata i primi feriti dagli scontri, cioè donne, ragazzi, giovani, cioè una cosa assurda, una carica proprio inspiegabile. Io non, fumogeni che arrivavano da caricato sul lungomare, non te lo so dire con precisione. Ho caricato anche voi che stavate? Sì, sì, anche noi che, cioè io mi sono beccato un fumogeno in faccia. Carabinieri? Polizia. Grazie. questo è il clima anche il 21 luglio, appunto, dove questa manifestazione enorme viene caricata praticamente subito, viene spezzato proprio dal punto di rifondazione del Partito della Rifondazione Comunista, se non mi sbaglio, il corteo lunghissimo, enorme, grosso, dove appunto partecipavano 300 se non più 1000 persone, per cui le cariche sono state violentissime, l'elicottero, ce lo ricorderemo insomma per tutta la vita, per quanto volava basso e cercava appunto di cercava le persone, guidava un po' la polizia. Ricordo insomma tantissime sono state le testimonianze che in questi anni per fortuna sono circolate, di anche appunto, anche qui l'avete sentito, di tanti medici, di tante persone, appunto una guerra, parlava un redattore della radio di una guerra compiuta con, portata avanti con armi impari, e sicuramente insomma si volle dare una bella lezione a tutte quelle 300.000 persone che a Genova si erano recate con dei contenuti, con delle istanze, istanze che lo ricordiamo insomma tuttora hanno delle verità, visto quella che è la crisi che si sta facendo pagare molto amaramente, molto pesantemente sempre alle classi subalterne e agli operai piuttosto che agli studenti, e quindi istanze che in qualche maniera si sapeva che sarebbe stato, che questo nuovo millennio avrebbe portato a questa crisi così acuta, ma soprattutto perché insomma il capitale sempre di più cerca di avere capitale, e quindi qualcuno sto capitale lo deve pagare, quale miglior insomma le classi si sa servono a queste e a questo, per cui un po' questa ora per ricordare quelle che furono le istanze di Genova, quello che fu anche questo fantomatico ordine pubblico di cui tanto si parla, e di chi furono i veri devastatori e saccheggiatori, devastatori delle vite, dei corpi, del corpo di Carlo Giuliani quest'oggi in particolare, il saccheggio anche del suo corpo, che fu non soltanto gli fu sparato addosso, ma gli fu passata la camionetta addosso più volte. Volevamo concludere con quella che poi fu una delle notti insomma che viene più ricordata come le notti buie di questo paese, la notte dell'entrata alla Diaz, dopo queste due giornate di cariche, dopo queste due giornate pesanti di gestione anche delle piazze, la polizia non contenta decide di irrompere dentro la scuola Diaz. E la scuola Diaz si trovava appunto grazie al Genova Social Forum, era stata uno dei punti dove del Genova Social Forum dove si poteva dormire, e era stata appunto anche autorizzata alle due scuole, la Pascoli e la Diaz. La Diaz era un dormitorio, e invece la Pascoli aveva al suo interno il media center, gli avvocati e anche gli infermieri. E quella notte insomma con la scusa che alcune camionette furono una camionetta, una macchina, non mi ricordo, gli furono lanciati dei sassi, il fior fior dei pestatori del nostro paese, in particolare insomma anche e soprattutto romani, decide di fare questa irruzione pazzesca e di veramente devastare e saccheggiare le vite di 93 persone. Tutto questo insomma davanti agli occhi di Radio Gap e di Indimedia, che non solo filmarono quello che fu questa irruzione, che ha permesso insomma anche di smascherare poi le falsità che sono state poi dette dai vertici della polizia, quindi che erano state trovate le Molotov, che era stato accoltellato un agente, insomma falsità per cui i poliziotti sono stati anche condannati, ma che ha permesso anche di portare un po' in luce, perché alla fine si è parlato tanto delle falsità, ma dei corpi martoriati di queste persone, anche della sadicità con cui è stata fatta l'irruzione Diaz. Mi ricordo insomma che furono fatti uscire dalla Diaz quelle che poi la polizia disse che erano le armi che avevano trovato, si trattava insomma dei pezzi di ferro degli zaini, si trattava di attrezzi da carpentiere e da muratore, perché vicino dietro stavano facendo dei lavori di ristrutturazione della scuola, per cui c'erano diversi tubi innocenti eccetera, e furono portati via attraverso dei sacchi neri, sacchi che si usano purtroppo molte volte per chiudere la gente quando muore, quando viene uccisa o muore. Quindi una forma di sadismo proprio, di spaventare, di, tanto che le parole insomma, che si urlarono maggiormente dalla scuola Pascoli furono proprio assassini, assassini. E non vi facciamo risentire l'entrata nel Media Center di Radio Gap. La polizia appunto irruppe durante la diretta di Radio Gap dentro gli studi, fermò e mise con le spalle al muro tutti gli attivisti di Indie Media proprio per evitare che i media attivisti potessero raccontare quello che stava accadendo, l'infamità, la vergogna che stava accadendo nella scuola di fronte. Questo per fortuna non avvenne, Radio Gap continuò le sue trasmissioni, Indie Media continuò le sue riprese. Tuttavia alle 2 di notte, dalle 2 alle 4 Radio Gap continuò a raccontare quella che era stata l'irruzione della scuola Diaz e ve lo facciamo riascoltare in questi 5 minuti. Quelli portati via in ambulanza, che io sappia, almeno quelli che ho visto, avevano già le bende sulla faccia, quindi sono persone, contrariamente a quello che è stato detto da membri che si sono fatti male, si sono azzuffati durante il corteo, non è che noi siamo entrati e abbiamo massacrato tutto. Cioè, lei dice che nessun ragazzo è stato colpito? Dentro no, c'è stato un tutti, qualcuno è stato fermato. Ora, intendiamoci, il concetto di fermare non è che la persona dice ok, sono qua, ferma. Avete distrutto, veramente un minimo di equazione fisica. Però per hanno detto perché è stato menato. Ma non è vero che è stato menato. L'ho visto io qua con la casa. Per questo quando vanno mi ha dato una manata in testa così. Va bene. Sicuramente entrerete. Anzi, io credo che abbiano tutto l'interesse i capi a mostrare quello che è stato provato. Visto che loro hanno detto che qui non potevamo entrare, e non è vero, perché c'è un articolo, il 41, sì, voi potete fare tutto quello che vogliamo. No, non tutto quello che vogliamo, però potete entrare in questo. Per la ricerca di armi, per la ricerca, sì, di armi. Ricerca di armi. Ma ne abbiamo trovato, l'arma non è la tua. Ma non di là. Non di là. E di qua? No, di qua non sono io. Io sono solo di là. Ma chi è entrato di qua? Io no. I miei no, non sono entrati di qua. No, andati subito qua. Forse tu no, ma forse altri no? Non credo. Hai visto, hai capito che non c'erano. Se sono quelli di Agnolotti, il consigliere, che prima hanno detto, poi hanno preso le distanze, quando vi ho detto quali che le armi ci sono. E quanti armi ha trovato? Tantissime, però non pistole. No, ma quale armi e quanto? Coltelli, 20 coltelli, mazze con ferro, coni, catene, maschera anticarro. Allora, questo un po' avete sentito, non so, precisamente non mi ricordo chi parlò all'uscita della, di questa mattanza che fu fatta alla scuola di Azza, le bugie insomma che furono dette quel giorno, le bugie che sono state dette per 11 anni su quelle che sono stati i ritrovamenti di armi piuttosto che e appunto le molotov, i coltellate e via dicendo. Quindi bugie, se ci sono state bugie su quella che è stata l'irruzione della Diaz, immaginiamo insomma su quello che poi può aver detto la polizia per tutte quelle giornate, di come anche i media poi dopo, subito dopo, l'hanno raccontate. E sicuramente insomma di tutto ciò, di tutta questa cronaca di Radio Gap non viene fatta menzione delle violenze invece perpetuate dentro quel luogo di tortura denominato Bolzaneto. E anche su questo insomma ormai le testimonianze, per fortuna, le persone poi hanno raccontato, penso con molta fatica, perché poi immagino non sia molto facile raccontare le violenze che si sono subite, soprattutto in luoghi così. Bolzaneto insomma un posto dove e non poterono per 3 giorni entrare familiari, dove coloro che vi si trovarono, che vi transitarono, non poterono avvertire familiari, non poterono chiamare avvocati. Un luogo insomma dove non c'era, dove ci fu sospensione di tutti i diritti e di qualsiasi possibilità di interazione col fuori. Quindi 3 giorni in cui le persone furono in totale balia delle forze dell'ordine. Sappiamo insomma cosa le forze dell'ordine sono in grado di fare in questi posti, nelle caserme piuttosto. E quindi insomma per fortuna poi le testimonianze ce ne sono state, e se ne sono state tante. Di tutto questo insomma, come dicevamo appunto, sono rimasti dei processi, non sono rimasti solo dei processi, insomma la memoria è una questione, è un ingranaggio collettivo, così si è detto tante volte. La radio oggi abbiamo cercato insomma attraverso quello che raccontò allora Radio Gap di ripercorrere quelle giornate, le giornate di giovedì, venerdì e sabato, e attraverso appunto quella che furono le corrispondenze di Radio Gap, un sunto poi del tanto materiale di Radio Gap. Quindi tuttavia insomma in quest'ultimo mese abbiamo visto che di molto di questo poi sono rimaste dei processi. Un processo che si è concluso con una Cassazione il 5 luglio scorso, che ha visto appunto diversi poliziotti essere accusati di falso e di lesioni per quanto riguarda appunto l'irruzione della scuola Diaz. Tutto molto caduto in prescrizione, il falso per queste falsità appunto i poliziotti non andranno sicuramente in carcere, non che questo ci interessi. Tuttavia stavo leggendo che proprio oggi insomma poi chiederanno l'affidamento ai servizi sociali per poter così espiare tra virgolette le loro colpe. Tuttavia in questi anni insomma le forze dell'ordine hanno tutte quelle che abbiamo un po' sentito in questo audio hanno fatto una grossa carriera e hanno scalato i vertici, anche facendosi portavoci e portatori di istanze contro la mafia. Su questa fantomatica mafia appunto sono diventati quasi degli eroi di Stato, e insomma quasi paradossale, no? In questi giorni in cui ricorre anche l'anniversario dell'uccisione di Borsellino e poi di Falcone. Quindi su questo punto hanno anche se sono stati mandati via o dovrebbero essere mandati via dalle loro cariche attuali, tuttavia insomma in questi anni non è che ci vanno da semplici soldati, ma bensì hanno delle grandi carriere alle spalle e addirittura dei grandi, hanno avuto dei grandi riconoscimenti. Questo perché nel corso degli anni appunto tante falsità sono state dette su quelle giornate, sulla gestione di questo fantomatico ordine pubblico, e su questo fantomatico ordine pubblico invece sono stati poi condannati i manifestanti. Il 13 luglio scorso la Cassazione ha deciso che il reato di devastazione e saccheggio si potesse applicare alle giornate di Genova, dove i veri devastatori e saccheggiatori sono stati i manifestanti, perché hanno sconvolto l'ordine pubblico di quelle giornate. Abbiamo sentito insomma già dalle 12.30 la prima carica della polizia su Piazza Danovi, abbiamo sentito i pestaggi nei confronti degli infermieri, abbiamo sentito insomma un po' quella che era è stato il clima e la gestione dell'ordine pubblico in quelle giornate. Quindi insomma ci sembra un po' allucinante quella Cassazione, quel reato che si sta cercando di dare sempre di più nei confronti dei manifestanti che si ribellano. Non ultimo, oggi c'è stato anche a Piazzale Clodio appunto un presidio in solidarietà a quei manifestanti del 15 ottobre che rischiano insomma anche loro il reato di devastazione e saccheggio. Siamo ancora insomma a processo, però tuttavia insomma si cerca di affibbiare questo reato di devastazione e saccheggio per mettere paura e per cercare di eliminare qualsiasi manifestazione di piazza e di ribellione. Quindi sicuramente un'attenzione su questo reato si dovrà continuare ad avere, soprattutto in questo momento in cui 10 persone per Genova sono state condannate a questo, 2 di loro sono addirittura entrate in carcere, e questo ci sembra un atto molto grave per chiudere quelle giornate. Uno è il nostro compagno di Radio Onda Rossa, Alberto, che salutiamo, e anche se ancora non ha potuto ricevere una radiolina, quindi probabilmente non ci starà ascoltando. Salutiamo anche Marina, che si trova invece a San Vittore a Milano. Sono le persone che in questo momento appunto con i loro 1-10 e l'altra mi sembra quasi 12 anni di carcere pagheranno appunto con la prigione, stanno pagando, non pagheranno ormai, pagano con la prigione quelle giornate di Genova. Con questo insomma il nostro saluto va ovviamente a loro, anche un po' questo ricordo di quelle giornate. Volevamo un po' concludere con un video, forse un po' lungo, però ve lo lasciamo in attesa anche del giornale radio che cercheremo di portare avanti, che cercheremo di fare alle 19.30, con un video analisi di un reato politico. Si parla proprio del reato di devastazione e saccheggio, un reato che risale al codice fascista e che direttamente dal codice fascista, così come il concetto di ordine pubblico direttamente da un ordinamento fascista e da un periodo fascista, viene portato nella repubblicana, nella Repubblica Italiana. E quindi diciamo che purtroppo insomma questo è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione, ma noi vi riproponiamo questo video che è stato realizzato con delle interviste a un avvocato Romeo, l'avvocata Tartarini, e che ci racconta un po' di questo reato. Il 13 luglio del 2012 la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna contro 10 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio, con pene che vanno dai 6 anni e 6 mesi ai 15 anni di reclusione per i fatti accaduti il 20 e il 21 luglio del 2001 durante le giornate del G8 di Genova. Per 5 imputati è stata annullata la sentenza della Corte di Appello di Genova, che dovrà valutare con un nuovo processo se sussista l'attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. Per altri 3 manifestanti che avevano avuto pene da 12 a 15 anni di reclusione, la Corte di Cassazione ha ridotto la pena con modulazione diversa da 9 mesi ad un anno di reclusione. Sono state invece confermate le condanne inflitte ad altri manifestanti, 10 anni di reclusione per uno, 6 anni e 6 mesi di reclusione per l'altra. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di devastazione e saccheggio. La Corte di Cassazione della Repubblica si è pronunciata su questi reati, devastazione e saccheggio, solo 21 volte, in 10 casi dal 1947 al 2000, e in 11 casi nel solo periodo che va dal 2001 al 2012. Devastazione e saccheggio è un reato che nel nostro, non nel nostro perché noi siamo una repubblica, nel codice fascista che ci portiamo appresso, ha subito una mutazione rispetto alle legislazioni precedenti, nel senso che questo reato nasce come un reato squisitamente politico, è un reato che attenta alla sicurezza dello Stato nelle vecchie codificazioni. Il regime fascista ha diviso in tre punti la condotta di devastazione e saccheggio. Al vertice troviamo la devastazione e saccheggio finalizzate sempre con finalità politica alla sovversione dello Stato, è l'articolo 285. In un livello intermedio troviamo l'articolo 419, devastazione e saccheggio. Al livello più basso della gravità di reato troviamo il danneggiamento semplice. Parte come reato legato a eventi bellici, quindi stiamo parlando di una estensione anche geografica molto ampia perché si potesse avere devastazione, addirittura da interessare interi stati quando si trattava di sicurezza dello Stato, fino al restringimento attuale, stiamo parlando di una prigione, di uno stadio, di un reparto di un CIE, il reparto di un CIE. Oppure altra applicazione è quella delle manifestazioni di piazza. L'intenzione che ci ha portato lì era, oltre che andare a guardare un bell'evento, speravamo che l'evento non si trasformasse in tutto quello che è successo, che oggi noi purtroppo ricordiamo. Speravamo fosse una bella manifestazione, speravamo trovare persone, speravamo trovare musica, speravamo che tutto questo servisse comunque a dimostrare che non tutti sono d'accordo a quello che succede, fatto da tanti potenti. Noi siamo partiti non politicizzati da alcune idee, siamo semplicemente partiti convinti che quello che stavano organizzando queste persone non ci piaceva. È termine che significa rendere vuoto, rendere deserto e ovviamente comprende nel suo significato semantico una pluralità di danneggiamenti, ma di danneggiamenti gravissimi nonché di distruzioni. Il saccheggio comprende nel suo campo semantico di estensione un numero indeterminato di furti e sottrazioni, una spoliazione totale di beni mobili. Io il 21 luglio 2001 mi trovo alla scuola Diaz e dunque ho vissuto l'assalto della polizia, il blitz della polizia sulla scuola Diaz, dove questi poliziotti si sono accaniti su di noi e ci hanno pestato a sangue con delle ferite gravissime, tanta gente è andata subito in ospedale e dopodiché i capi della polizia che erano lì presenti hanno pensato che si doveva giustificare questo massacro e hanno deciso di mettere due bottiglie Molotov, come abbiamo saputo dopo, tra le nostre cose. E dunque siamo stati arrestati all'epoca di resistenza, porto di armi e organizzazione criminale finalizzata alla devastazione e saccheggio di Genova. Quello che si è venuto a scoprire all'interno del processo per la scuola Diaz ci dice e ci documenta e ci dà per provato che già dalla mattina del 21 di luglio le forze di polizia presenti a Genova avevano un compito da svolgere che era costituito dalla raggiungere il maggior numero possibile di arrestati per migliorare e riscattare l'immagine della polizia che si assumeva essere stata appannata da quello che era accaduto il giorno precedente. Già quindi la mattina del 21 di luglio Vengono arrestate 23 persone alla scuola Paul Klee con un'accusa particolare: associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. La stessa accusa, associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio, sarà quella attraverso la quale verranno arrestate la notte di quello stesso giorno le 93 persone presenti all'interno della scuola Diaz. Nel processo Diaz, i video incrociati con le denunce delle parti offese hanno permesso di ricostruire come in una sorta di 3D l'operazione del blitz all'interno della scuola Pertini. Difatti gli unici video che hanno ripreso le prime fasi dell'arrivo della polizia sono stati realizzati dai militanti di Indimedia, dalla scuola Pascoli posta di fronte alla Diaz Pertini. Queste prime riprese hanno permesso non solo di fissare l'orario d'arrivo dei funzionari, ma soprattutto che non ci furono lanci di oggetti da parte degli occupanti della scuola e che i soccorsi, come ad esempio nel caso di Markovel, arrivarono solo dopo 20 minuti in cui lui giaceva a terra immobile. Tre anni dopo hanno finito l'indagine contro di noi senza trovare niente e dunque a quel momento lì abbiamo cominciato il processo contro la polizia. E 11 anni dopo, un paio di giorni fa, c'è stata una sentenza definitiva in Cassazione. In questa sentenza si è deciso che sono prescritti i reati per i poliziotti che ci hanno picchiato, dunque i bassi livelli o i picchiatori, come li chiamano, non hanno nessuna condanna, ma invece i capi della polizia sono stati condannati per falso, per il verbale di arresto, e sono stati condannati a 4 anni di carcere, che non la faranno, ma sono interdetti di pubblici uffici. Dunque il giorno dopo la sentenza hanno smesso di lavorare per la polizia italiana. In questo processo del 13, tra queste persone che debbono rispondere, che sono state condannate in corte d'appello, alcune di queste sono state condannate per concorso morale, vale a dire la loro presenza vicino a luoghi in cui si svolgevano delle azioni di danneggiamento, anche se non li ha visti direttamente interessati, secondo i giudici, è stata sufficiente per ritenerli responsabili di quello stesso reato. Le prove che hanno loro sono praticamente foto. Mai hanno avuto una prova evidente di un nostro danneggiamento. Loro ci vedono passare col motore, o ci vedono posteggiati con questo motore, o semplicemente seduti da qualche parte, vicino o in zona dove sono avvenuti dei momenti caldi. Io posso concorrere moralmente in un reato in due modi: o se convinco la persona che ha commesso il reato a farlo, quindi se ho convinto chi ha rotto la vetrina a romperla, oppure se con la mia presenza sul posto aiuto in qualche modo chi ha rotto la vetrina a romperla. La gestione dell'ordine pubblico fu devastata da coloro che avevano il compito di mantenerlo. Questa parte è stata, diciamo, in oggi accollata invece ai manifestanti, che liberamente manifestavano il loro pensiero da liberi cittadini, commettendo anche alcuni reati, ma reati che sicuramente non meriterebbero questo tipo di sanzione laddove non fosse applicato questo reato di devastazione e saccheggio. La strategia della procura era chiara: attraverso il concorso tutti coloro che a vario titolo transitavano per le strade di Genova dove si erano verificati gli scontri potevano essere accusati di devastazione e saccheggio. I 15 sono stati assolti per legittima difesa, avendo reagito alla carica dei carabinieri in via Tolemaide. I video non solo hanno ampiamente dimostrato tale ricostruzione, ma hanno permesso di evidenziare quanto l'operato dei carabinieri fosse criminoso. L'esperienza del G8 suggerisce a chi in piazza porta la videocamera di tenere presente alcune cose. Ad esempio, è sempre necessario filmare la polizia così come loro filmano i manifestanti, e soprattutto non staccare per nessun motivo in occasioni in cui ci siano scontri in atto. suscita molto più allarme sociale avere 93 persone, di cui 63 malmenate brutalmente da inermi e alcune mandate in ospedale in fin di vita, piuttosto che aver rotto qualche vetrina di una banca o di una finanziaria. Quello è sicuramente un reato che meriterebbe però una sanzione adeguata a quello che è stato il fatto, ovvero un fatto obiettivamente minimo. Così non è, e questo credo che debba preoccupare tutti quanti hanno a cuore la libera manifestazione del pensiero, anche diciamo nei suoi aspetti più esuberanti, ma che sicuramente non coinvolgono diciamo così la violenza sulle persone. Se noi ripercorriamo le tappe storiche dell'evoluzione di questo strumento repressivo e la applicazione progressiva via via aumentata nel periodo a noi più vicino, cosiddetto a questo punto periodo repubblicano, ci possiamo rendere conto che in realtà stiamo parlando di una progressiva militarizzazione dell'ordine pubblico, è inteso come strumento di repressione delle idee del dissenso. Dico militarizzazione progressiva dell'ordine pubblico perché la contestazione di reati così gravi impedisce, insomma, e funge anche da deterrente per chi volesse andare in piazza a protestare. Militarizzazione che ha trovato da ultimissimo, insomma, la sua massima espressione con quello che accade in Valsusa, in cui un'intera zona di territorio nazionale è stata dichiarata zona di interesse militare strategico. Più militarizzazione di ordine pubblico di così, non so dove dobbiamo arrivare. Ringraziamo Diaz Talk per averci insomma dato pubblicamente questo video analisi di reato politico, lo trovate anche su, ovviamente, su YouTube, che fa un po' appunto il quadro di questo reato. Due le cose, insomma, secondo me, che vanno ancora una volta ribadite: come a Genova nel 2001 dicevamo che le merci sono meno importanti delle persone, il primo corteo è stato aperto da i migranti, questo non ce lo dimentichiamo mai, il giovedì sono stati loro i protagonisti della libera circolazione, perché per noi le persone, la libera circolazione delle persone e le persone stesse valgono molto di più delle merci e quindi del capitalismo, così come oggi dopo queste cassazioni diciamo che una vetrina non può valere più di una persona, in riferimento alla scuola Diaz, ma anche alle botte, tante botte che pestaggi che sono stati fatti in piazza e anche a Bolzaneto, e dall'altra che sicuramente, insomma, su questo reato continua a dare battaglia la campagna 10% un po' ha cercato di iniziare a incrinare un po' a porre l'attenzione su questo reato, continueremo ovviamente a anche come radio a farne parlare, a parlarne, questo perché non solo perché deve esserci la libera possibilità di manifestazione e di espressione qui veramente del proprio pensiero, anche di sociale, nonché di ribellione, nonché di contrasto nelle piazze eccetera, insomma il diritto a non essere d'accordo con questo modello di sviluppo che ci viene imposto, ma anche perché appunto è un reato che sproporzionato, diciamo, di derivazione fascista, quindi di un clima che sicuramente si vuole riproporre dal ventennio direttamente ad un altro ventennio, insomma, in questi anni. Con questo, insomma, andiamo a concludere questo lungo riepilogo di quello che è stata Genova nel 2001, ci veniva anche naturale per un saluto ad Alberto e Marina, che appunto non lasceremo mai soli, e ma anche perché, insomma, questo venerdì 20 luglio è uguale a quel luglio del 2001. Alle 17:25 veniva ucciso Carlo Giuliani, non passerà anno che non ricorderemo questo omicidio di un ragazzo giovanissimo che non solo gli è stato sparato in testa, ma lo ricorderemo sempre, ogni minuto, ma un defender dei carabinieri è poi passato sul suo corpo ancora vivo, e in questi momenti, in queste ore a Genova si sta come ogni anno facendo una manifestazione proprio a Piazza Limonda, e nella notte, proprio ieri notte, è stata imbrattata, come accade mi sembra quasi ogni anno, è una cosa allucinante, è stata imbrattata la targa in ricordo di Carlo Giuliani. sorvolo su ogni commento su questa infamità, perché comunque alla fine di questo si tratta, e la storia, insomma, sono passati 11 anni, ma mi sembra che le modalità di infamità siano le stesse. Ci andremo fra poco a collegare con Genova in apertura del giornale radio. Vi lascio un po' di musica per riposare un po' le orecchie, anche la mia voce. In particolare per ora vi lascio con una canzone di Paolo Conte, proprio